con l'artista Antonello Silverini per parlare delle copertine che sta dedicando ai classici della fantascienza per l'editore Fanucci. Antonello, ben trovato. Grazie Federico, grazie per trovare a te. Ci racconti di questa serie? Sì, con l'editore Fanucci, con il quale io ormai lavoro già da oltre 10 anni, quindi abbiamo cominciato tanto tempo fa con le copertine di Philip Dick, siamo andati avanti tutto questo tempo collaborando. Dopo il tempo adesso stiamo facendo questa nuova collana dedicata alla fantascienza classica, quindi abbiamo cominciato 2 anni fa con i primi 4 volumi dedicati a Wells, quindi L'uomo invisibile, L'isola del dottor Moreau, La guerra dei mondi e La macchina del tempo, quindi 4 titoli famosissimi, eccetera. Adesso sono appena usciti I racconti di fantascienza, una raccolta di racconti di fantascienza di Edgar Allan Poe e Il mondo perduto di Arthur Conan Doyle. E adesso abbiamo in cantiere invece La fiamma nera, che è un romanzo meno noto magari rispetto a questi di Weinbaum, e Il Necronomicon, una raccolta di racconti di Lovecraft. Com'era partito tutto? Su proposta tua o loro? No, solitamente queste cose partono su iniziativa dell'editore che decide se è più o meno il momento di far uscire magari, ecco, una collana del genere. Detto questo, visto che la collaborazione comunque dura, esiste da tanto tempo, poi nel momento in cui si crea la copertina, si progetta la copertina, io ho assoluta carta bianca e faccio assolutamente quello che voglio, sperando di non creare troppi danni, insomma. Senti, al momento quanti sono i titoli? Al momento sono 6 usciti e 2 in uscita. Questi classici che periodo coprono dal punto di vista degli autori? Ah, ma credo che vadano all'incirca dall'800 al 900, questo è il periodo di questi racconti. Sì. Cioè, diciamo che sono un po' i paradini di una certa fantascienza, un po' gli archetipi di certe cose che poi abbiamo visto e letto e visto al cinema centinaia di volte dopo di loro. Sì. Per quanto riguarda i soggetti, a cosa ti sei ispirato? Ma di solito, guarda, io faccio sempre una prima ricerca su quello che è già stato fatto, per cercare proprio di evitarlo, per cercare di non ripetere magari qualcosa che è stato fatto. Poi io, non essendo un illustratore prettamente di fantascienza, prettamente di genere in generale, non ho quindi molta dimestichezza con il linguaggio e l'immaginario solito della fantascienza, e questo in qualche modo può anche essere un vantaggio, nel senso che io poi alla fine mi sento molto, molto libero, sempre molto libero, quindi i miei riferimenti, sia quando faccio la fantascienza o quando faccio la copertina di un altro genere di racconti o faccio un articolo di un giornale o il manifesto di un film, il mio approccio è sempre lo stesso, cioè io mi sento libero di essere investito dall'immaginario che vado a raccontare col mio linguaggio. Cosa ti ha intrigato maggiormente di questa serie? La cosa che ha intrigato me inizialmente, principalmente mi è intrigato come lettore, nel senso che comunque gran parte di questi titoli io la conoscevo già per averla letta, insomma, in varie fasi della mia vita, quindi pur non essendo un grande lettore del genere, questi titoli qua, bene o male, li conoscevo un po' tutti, così come gli autori, insomma. Sì. Passiamo più in generale a parlare del tuo lavoro. Quali sono le tecniche che utilizzi? La tecnica è più lunga da raccontare che da vedere o da fare. No, in realtà non è così complessa. Io faccio una sorta di collage digitale, cioè prima disegno tutta l'immagine a matita, poi costruisco una specie di collage digitale, quindi utilizzando molti pezzi fotografici, distorcendoli, poi stampo su un supporto e con gli acrilici dipingo sopra questa base. Questo è, diciamo, il procedimento più tradizionale. La stessa cosa la faccio realizzando però tutti quanti i passaggi solo e solamente in digitale, cioè solamente utilizzando il computer e i programmi del computer. Ricostruiamo anche brevemente il tuo percorso artistico, come era partito, come si è sviluppato? Sì, guarda, io finiti gli studi, cioè ho fatto liceo artistico e poi istituto europeo di design e illustrazione, ho cominciato a lavorare soprattutto come storyboard artist per le agenzie di pubblicità e ho lavorato 10 anni facendo campagne di tutti i tipi, dai pannolini alle fette biscottate. Soltanto che a un certo punto mi sono reso conto che tutto questo lavoro che facevo, che sicuramente mi ha dato esperienza, manualità e anche indipendenza economica, perché no, mi sono reso conto che tutto questo lavoro era totalmente invisibile, cioè quello che io facevo andava direttamente in agenzia e poi dopo veniva utilizzato per fare la vera campagna, ma il mio lavoro era veramente oscuro. Io ho sempre invece sentito dentro di me una spinta autoriale che poi a un certo punto ho tirato fuori per fare poi delle illustrazioni vere e proprie, insomma. E le mostre? Le mostre sono belle, mi piacerebbe farle. Io, avendo un percorso poi forse più da pittore che da illustratore, sono sempre stato legato anche ai grandi formati, cioè è una cosa che a me è sempre piaciuta e piace sempre fare. Quindi sì, avevo fatto una mostra nel 2014 con tele anche molto grandi, anche di 2 metri, poi sai, sono stato un po' investito dal lavoro quotidiano e dalla necessità di guadagnarmi il caviale quotidiano e quindi mi sono un po' fermato. Adesso c'è la voglia di ricominciare, c'è in progetto una mostra che vorrei fare dedicata al cinema, che è un altro grande amore, in occasione dell'inaugurazione di questo festival che si fa a Forlì di cortometraggi, che si chiama 16 Corto, per il quale io ho fatto quest'anno il manifesto. Qualche lavoro di cui sei particolarmente fiero del risultato e anche della visibilità? Guarda, il fiero del risultato sono dei lavori che piacciono soltanto a me, magari i lavori che non sono piaciuti molto sono quelli che io amo di più e ai quali magari sono più affezionato. Quelli che mi hanno dato maggiore visibilità sicuramente la collana di Philip Dick, le copertine per la collana di Philip Dick di Fanucci, che è stato forse il primo vero lavoro che mi ha dato una certa fama, diciamo così, e poi il manifesto del Festival del Cinema di Roma, il manifesto del film di Ascanio Celestini, insomma varie cose, e comunque anche tutto il lavoro che negli anni ho fatto soprattutto sulla lettura, l'inserto del culturale del Corriere della Sera, con il quale ancora collaboro. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per seguirti? Sì, guarda, io sono come tutti su Facebook, quindi al mio nome, semplicemente cercando il mio nome, Antonello Silverini, si trovano i miei link sia Facebook che Instagram o il mio sito che in questi giorni è in via di rivoluzione. No? Allora un saluto e un ringraziamento all'artista Antonello Silverini, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te, a presto, grazie a tutti.